Canto a lei, zio. Sulle parole, dirti quanto sei importante. Oh, wow. Sei qui nella mia mente, tuo passato e il mio presente. Tengo pronta le mie mani, la mia vita un po' domani, un futuro senza fine, io e te per sempre il time. Alzo gli occhi fino al cielo, un sorriso però vedo. Vinci forte, la tua vita è un futuro. Alzo gli occhi, il tuo sorriso. C'è il rap. Cielo stellato, un sorriso innamorato, brilla e colora il cielo, lo dipinge per davvero, ma nasconde un mistero, il mistero dell'amore, lo puoi scoprire donando il tuo calore, a volte basta un fiore e una promessa, come un uomo vestito d'azzurro con una principessa. Tutto cambia nella giornata stessa, una persona dal degrado in cui è messa, ne esce fuori e cambia testa. Oh, oh, oh. Si rimane in pista e si entra in pista, non è amore a prima vista, chissà cosa c'è nella mia sinistra, un cuore che batte e all'interno smista, in sentimenti dalla mia voglia, in questo mondo rimango sulla soglia, io amore di te ho voglia.